sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ieri stavo occupato come sempre davanti a un computer a guadagnarmi il pane per i miei primi figli quando ho incappato una mia amica che non sentivo da qualche giorno. Le solite domande, come va, come non va, era una giornata che ero particolarmente abbacchiato, ma per cose mie, semplicemente che ero un po' stanco. E lei mi risponde, dice, ma perché stai giù? Dice, ma guarda, mi va tutto benissimo, il lavoro va a gonfie vele, la vita personale va a gonfie vele, però mi manca quella qualcosa per riuscire a dare un senso a quello che faccio, vorrei fare qualcosa che si avvicini appunto all'opera d'arte. Ma lo dissi così, con le butade che si dicono. Mi rispose l'amica dicendo, ma guarda che la vita stessa è un'opera d'arte. Mi sembrava che le frasi buttate lì così, tanto per dire qualcosa, una ragazza romantica, simpatica, sempre con lo sguardo oltre il mondo che deve calpestare anche lei per quotidiana necessità. Invece misi nel mio status di Facebook, cioè nella striscia che definisce il mio livello di percezione dell'esistenza, la nostra vita è un'opera d'arte. E ho ricevuto un'infinità di risposte. Ne ho davanti tantissime. Stranamente questa domanda, che sembra banale o sembra profonda o sembra affondare le radici in tutta la storia del pensiero dell'umanità, ha suscitato nell'uomo contemporaneo, affrettato e preso da mille rivoli di impegno quotidiano, un desiderio di riflettere su questo. Cominciamo a riflettere questa mattina, perché la trasmissione devo farla assieme al pubblico, che sono soltanto io da questa parte, anzi pare ci sia anche qualche difficoltà da parte mia per vedere poi la reazione del pubblico. Comunque mettetevi davanti al telefono e cominciate a chiamare all'800 24 0024. Il senso della domanda è questo, e probabilmente ognuno di voi ha una sua risposta individuale, ognuno di voi ha messo a punto un metodo personale, anche se in questo momento non ci ha mai pensato, non l'ha mai allucinato serenamente e lucidamente, non ha mai pensato di farne un manuale per trasferire le proprie scoperte al resto del mondo. Quali sono le maniere, gli stratagemmi, i sistemi individuali, consapevoli o inconsapevoli, lucidi o subliminali, che noi usiamo per trasformare attimi della nostra vita in momenti artistici? Quando noi pensiamo, immaginiamo, vogliamo trasformare un qualsiasi trancio della nostra esistenza in un'opera d'arte. Opera d'arte potrebbe essere la ricerca di un momento sublime. Opera d'arte potrebbe essere la disperata ricerca di un contatto con un altro essere umano profondo che ci cambi, che ci modifichi, che ci dia un sguardo differente sulla realtà, anche soltanto per un attimo, per un momento, per il corso di una serata, per un'ora, per una passeggiata, per una notte d'amore, per una telefonata, per la lettura, lo scambio di un SMS. Non ne facciamo questione di tempo, ma solo questione di intensità. Potrebbe essere la felice consapevolezza di avere un talento ed esprimere il proprio talento, accorgersi che si è inimitabili in qualcosa. Una signora è brava a truccarsi, un'altra signora è brava a indossare un particolare tipo di scarpe, un'altra signora è bravissima a cucinare torte di mele, un'altra signora è stupenda nel ammanzire le furie dei ragazzini. Anche la consapevolezza e la lucidità che quei momenti sono momenti unici dà il senso di essere artisti della propria esistenza. Andiamo avanti ancora, nella propria professione. Nella propria professione ci si rende conto improvvisamente, con gli anni, con l'esperienza, con la pratica, che siamo diventati bravissimi nel fare qualcosa. Certi processi ci vengono istantanei, automatici, anzi noi abbiamo la fantasia e la creatività di reinventare ciò che esisteva nelle procedure, negli schemi, nelle maniere d'uso che ci sono state passate da chi per primo ha svolto la nostra funzione. Guardate quanto anche un semplice momento di burocrazia quotidiana può diventare una fantastica maniera per sentirsi artisti. Andiamo avanti ancora, nel gestire le proprie emozioni o nel non gestirle. Uno sfanculamento veloce, scoppiettante, gioioso, improvviso, dirompente, ha la stessa sensazione di appagamento nel chi lo pronuncia che potrebbe avere un artista di fronte alla contemplazione di una sua opera riuscita, che ha il plauso del pubblico, che soddisfa ogni minima e intima attesa. Alla stessa maniera, la capacità di uscire da una storia intricata, la capacità di districarsi in un meandro di sensazioni, la capacità di divincolarsi da vincoli, beh, tutto questo potrebbe essere rappresentato come l'opera d'arte della nostra esistenza. 800240024, come trasformare la propria vita in un'opera d'arte. Ognuno dovrebbe vivere una vita piena, completa, dare forma ad ogni sentimento, ad ogni espressione, ad ogni pensiero, realizzare ogni sogno, ogni impulso che noi sopprimiamo intossica la mente. Il tempo è geloso di lei, signor Gray. Non sciupi l'oro dei suoi giorni. Viva, non perda niente, non abbia paura di niente. La sua giovinezza durerà così poco e non tornerà più. Il mondo è suo per breve tempo. Sarebbe tragico se si accorgesse troppo tardi, come succede a molti, che c'è solo una cosa che valga la pena di avere: la giovinezza. È chiaro che se vogliamo attingere alla fonte infinita delle ispirazioni letterarie, poetiche, artistiche, troviamo un'infinità di esempi di personaggi illustri del passato che hanno lasciato tracce indelebili nel nostro immaginario letterario di come la vita possa essere trasformata in un'opera d'arte. Avete sentito una tranche di un film ispirato al romanzo di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Dorian Gray ha trovato questo fantastico escamotage di appoggiare le intemperie del tempo che lascerebbero segni comunque nella sua vita sregolata in un ritratto. Ha costruito e allucinato qualcosa che lo rappresenta, sul quale si segna ogni giorno tutto ciò che il tempo e la sregolatezza lasciano come tracce indelebili sul proprio corpo. E quindi ha la possibilità di avere, godere e sicuramente di illudersi di questa eterna giovinezza. Un'opera d'arte per Dorian Gray, aver creato l'opera d'arte dell'abiezione della propria esistenza. Beh, anche in questo, anche nell'abiezione, possiamo noi trovare degli spunti profondi. Un artista della dissolutezza. Mi piacerebbe che questa mattina telefonasse un artista della dissolutezza, una persona indicata comunque dalla società, dalla verecondia comune condivisa, come essere dissoluto, che in realtà ci scopre, ci rivela che lui è un artista di quel livello di abiezione per cui viene condannato da tutti. Più lo si condanna e più lui ha la consapevolezza di compiere un'opera d'arte. Basilia, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi. Già chi l'ha battezzata ha dato in lei una predestinazione per compiere regali e opere d'arte della sua vita. Però mi ha compensato con un cognome che mi compensa il nome, perché io di cognome mi chiamo Innamorati. Beh, Basilia Innamorati, devo dire che è una condanna, allo stesso tempo è un sublime tormento che l'accompagna per tutta la vita, sì, la invidio molto. Comunque hanno optato bene di chiamarmi Ilia, pertanto Basilia è soltanto quando devo ufficialmente dare il mio nome, altrimenti è Ilia. Ma perché? È talmente bello Basilia. Ma non sono abituata, mi chiamò così la mia mamma dal momento in cui nacqui, pertanto io non sono educata al nome Basilia. Ma nessuno, nemmeno nell'intimità, la chiama Basilia? No, assolutamente nessuno, soltanto lei. Ma guardi, io troverei un brivido inenarrabile nel chiamare una donna Basilia in un momento di rapimento. Lo dico per chi non avesse colto il senso, la radice di Basilia penso sia Basileus, che vuol dire re, quindi è qualcosa legato alla regalità greco, di una persona. Quindi è un nome che viene dal greco. Ma che devo fare? Ognuno ha le sue condanne. Le volevo dire invece a proposito dell'argomento che oggi stiamo a Vediamo lei come è riuscita a trasformare attimi della propria regale esistenza in opera d'arte. Io sono riuscita in questo modo. La mia identità, ho vissuto un momento di solitudine, perché chiaramente sono rimasta sola, pertanto incombeva la solitudine. Che io ho detto che sì, ma quando ha percepito questa solitudine? Un po' di tempo fa, diciamo un anno e mezzo. Da poco. Pertanto chiaramente si sente quando si smette di lavorare, c'è un momento di crisi. Data dalla fine del lavoro la solitudine. Sì, la fine del lavoro, la figlia che si è sposa e va lontano a vivere, insomma, da una serie di cose. Ok, Basilia è rimasta sola. E sono rimasta sola. Sovrano e suddito del suo regno abbandonato e deserto. esattamente così. Io un giorno sono andata a prendere un gelato in un bar nella mia zona e mi sono, osservando la gente che entrava con un'espressione non allegra, usciva con un'espressione degli occhi e del viso, vuoi per lo zucchero che comunque va immediatamente nel cervello dalle papille gustative, vuoi perché il dolce è una cosa che dà comunque armonia dentro di noi, ci rallegra, che io osservavo sugli volti, sugli occhi della gente un'espressione diversa. Quindi aveva scoperto una delle tante fessure da cui si esce dal mondo, che è una gelateria. Un momento di... E io sono... ho avuto un flash. Perché non fare sì che gli altri possano gioire di una cosa piccola? Che tutti ci possiamo concedere poi alla fine, no? un momento di dolcezza, e io così alla mia età ho deciso di mettere su una gelateria dove potevo creare con le mie mani, costruire nei colori, nei sapori, nella dolcezza, e questo mi dà e mi sta dando una gioia immensa, perché al di là della gratificazione che poi, non avendolo mai fatto, io riesco a ricevere dalle persone, perché poi mi sono impegnata nella ricerca, ho letto, ho guardato tante riviste. La prima parte della sua vita, diciamo la parte oscura della sua vita, cosa faceva lei, Basilia? No, sono sempre stata commerciante e facevo la macellaia. La macellaia. Quindi lei dal tagliare a pezzi quarti di bue, che anche questo dà felicità comunque a chi se li compra, li acquista. È un'esigenza, perché chiaramente... È una grande gioia, diciamo, di lavoro, arrostirsi la carne. Adesso per questo sarò appeso alla gogna per il resto dei miei giorni degli animalisti, però io ricordo... fra i momenti artistici della mia vita, ecco, ricordo, adesso vi dico un momento artistico, resti in ascolto, Basilia. Ricordo quando ancora ero fidanzato con mia moglie, una sera la portai in montagna e portai con me salsicce e un coltello, non avevo altro, e gli mostrai la mia bravura nel cuocere la carne con pochissimi accessori. Penso la conquistai per questo. Ricordo ancora questa notte sui Monti Sibillini, in cui semplicemente raccolsi legna, feci lo spiedo, infilai salsicce, avevo vino in abbondanza, fu una bellissima nottata. Però mi ricordo, ecco, quello fu un'opera d'arte. Io non avevo ancora consapevolezza che ero un artista nel cuocere la carne all'aperto con pochissimi accessori, quindi in maniera molto brutale, e misi a punto una mia facoltà artistica. Quindi lei ha fatto la stessa cosa, Basilia. Sì, perché poi in effetti io credo che tutti gli esseri umani una vena l'abbiamo, tutto è volerla cercare, tirare fuori, perché io credo che la nostra mente è così creativa in ognuno, al di là della cultura e non cultura, spessore culturale. Noi siamo esseri umani che abbiamo un potenziale immenso dentro di noi. Quindi cominciamo a stabilire, per Basilia essere artista della propria esistenza è l'aver scoperto che lei dà felicità somministrando i suoi gelati. Chi prende il gelato di Basilia esce per il lasso di alcuni istanti dal tedio, dal grigioro, dal quotidiano, ed entra nella menzione fantastica, determinata la capacità di Basilia di mettere assieme, come fosse un alchimista, gli ingredienti, i colori, i sapori dei suoi gelati. Brava Basilia, passiamo a Tina. Buongiorno, ciao, signor Nicoletti, lei è molto molto bravo, veramente. Vabbè, lei in cosa è artista? Io so che chiacchiero benino. Non sono artista in niente, no, niente, volevo dire una cosa. Quando prima ha parlato che appunto l'inizio della trasmissione con la sua amica, l'incontro con la sua amica, no? Praticamente secondo me... Sì, starà lì a maledirmi la mia amica, perché poi ho messo anche la sua foto su Facebook e tutti la stanno prendendo in giro. Tu hai detto a Gianluca dell'opera d'arte. Però mi ha ispirato, è successo il pomeriggio di ieri, quindi pensi da quanto ci penso. Ma andiamo al punto. Ha detto una cosa giustissima. Sì, ma non ci giri intorno, Tina. Quali sono i momenti della sua vita in cui lei è artista? Ognuno di noi è un artista. Ma lei in cosa è artista? Ecco, io faccio così un corso di teatro, no? È un artista, in quanto attrice? No, artista, non mi sento artista per niente. Però dicendolo a qualcuno, dico, vuoi fare anche tu teatro? Ah, beh, dice, ma noi già facciamo teatro nella vita. Effettivamente ognuno di noi fa teatro quando si mette in relazione con allora, l'altro. Allora, quando lei ha recitato in maniera sublime nella sua vita e si è sentita artista? Beh, è sublime, no, perché io sono... È un po' tristanzuola? No, non sono sublime, sono così, giusto per passare il tempo. Però ognuno di noi è un artista, effettivamente. Sì, ma lei in cosa è artista? Non mi ammosci la trasmissione, Tina. Beh, io per esempio so fare la pasta al forno benissimo. Brava. È questo, ma cose semplici. Senza metterci niente di mio, così mi viene spontaneo. E come non ci mette niente di suo? Ci mette le mani, no, la fantasia? No, non faccio niente di speciale, mi viene bene e basta. Ma questa cosa può essere applicata a un'infinità di attività manuali di cui è capace una donna. No, quindi... no, la pasta al forno è particolare, mi viene proprio, infatti mi dicono, ma che buono, però io non ho fatto niente di speciale. Ma come non ha fatto niente? L'ha fatta lei? Scusi, non è un momento unico? Però dico, non è che mi sia applicato in un modo particolare, l'ho fatto solo con amore. Ma basta. L'artista non è che si applica in modo particolare, lei fa la pasta al forno con amore. E cosa accade quando somministra questa delizia? Vedo che piace. Ma perché lo dice con questa voce moscia come se uscisse da un funerale, scusi? No, non esco da un funerale. No, però la voce ce l'ha da un po' così, da mortaccina, come mai? Oh, madonna mia. Eh sì, è vero. Eh beh, perché insomma c'è tutto un insieme di cose che ci circondano nella vita, no? E allora scusi, faccia la pasta al forno, renda felice qualcuno e sentirà immediatamente gratificata. Senz'altro, grazie. Comunque sì. Lei è eccezionale. Sì, ho capito, ma lei... Grazie, grazie. Mi lusinga, mi rendo conto, però io devo tirare fuori come se fossi un cavadenti dalle persone che mi chiamano le loro capacità di rendere artistica la propria vita. Lei ha detto la pasta al forno. Ho detto la pasta al forno, però effettivamente il fatto del ce teatro, anche un altro. Ognuno di noi, dico... Ma il teatro è una cosa da dopo lavoro, lasci perdere. La sua specialità è fare... È meglio essere un artista alla pasta al forno che un'attrice dilettante, quindi si concentri, come ha fatto la sua collega con i gelati, in quello che riesce bene, e una cosa riesce bene quando dà felicità alle persone che ci circondano. La felicità degli altri è una possibilità vampiresca di essere felici noi stessi. Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo, di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella, riuscire a farla diventare la ragione della tua vita, una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? L'arte è invece qualche cosa che ci fa riflettere sulla vita, che di per sé sarebbe soltanto un cuore che batte, uno stomaco che digerisce, dei polmoni che respirano, degli occhi che si riempiono di immagini prive di senso. Voi direte facile, quando questa domanda viene posta a un artista come Fellini, non può che rispondere che per lui la vita è un'opera d'arte dal momento che si è reso conto che il frutto del suo ingegno, le sue fantasie rese attraverso un'attività espressiva come quella del cinema, diventano fantasie collettive, fantasie comuni. Questo è il vero senso e la fortuna e il privilegio dell'artista, l'artista celebrato, l'artista riconosciuto, l'artista conclamato, l'artista messo sugli altari, ha la consapevolezza assoluta che tranche della sua vita diventano opera d'arte, per quando le racconta, quando le trasferisce, quando le scrive, le trasforma in materia poetica, le trasforma in attività espressive, le dipinge, le scolpisce e vede la commozione generale, capisce che pezzi della sua vita diventano eterni perché diventano opere d'arte. Da quando ho cominciato a vivere la mia esistenza identificandola col fare i film, ho l'impressione che sia sempre lo stesso giorno. Mi sono sempre stato in un teatro con un megafono in mano a gridare, a fare il ciarlatano, il pagliaccio, il commissario di pubblica sicurezza, il generale. Ecco, sono circondato da buio e dalla luce, buio in alto e luce attorno. E poi una serie di ombre che si muove attorno. Mi sembra che la mia vita sia stata, si sia consumata, si stia ancora consumando, in questa immagine. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. In cosa la sua vita è un'opera d'arte? Intanto tutta la mia vita è un'opera d'arte. Diciamo che è cominciata come una tela bianca e io da artista ho iniziato a disegnarla come io volevo che fosse la mia vita. E io sono una donna transessuale e quindi come una scultrice ho iniziato a scolpire il mio corpo per farlo diventare quello che io volevo. Quindi si è costruita, ha riprogettato il suo corpo. Esatto, e non solo quello. Io sono anche creatrice del mio nome. Io fra qualche mese avrò i documenti a posto. Ma lei non si chiama Elisabetta ancora? No, non ancora, fra qualche mese. E come si chiama? Cioè all'anagrafe? Ma perché glielo devo dire? Vabbè, già, perché fa parte del... Vabbè, mica. Io penso che sovrascrivere alcuni momenti e trasformarli in opera d'arte non elimina quello che c'era prima. Non lo so, poi lei è libera di fare quello che vuole. No, quello no. Sa, non trovo molto questo tabù di parlare del prima. Cioè, io prima ho avuto momenti di stronzaggio nella mia vita inenarrabili, ma li racconto con serenità, li ho elaborati, no, ci sono passato solo. Io guardi che non l'ho mai nascosto a nessuno, per quanto nessuno mai lo capisce, perché non sono... cioè non si vede che sono una donna transessuale. Sì, però sa, il vero senso della sua opera d'arte, della sua costruzione di un'immagine che va soltanto allucinata, adesso ha costruito, quindi è concreta, è artistica in ragione di quello che c'era prima. Se noi pensiamo che lei è già nata così, diciamo vabbè, grazie, che sforzo ha fatto. Se noi vediamo che prima magari, che ne so, era un carabiniere coi baffi, adesso è una donna meravigliosa, diciamo che brava, vedi come si è fatta. No, non sì, trova. Però chi è che si pone la domanda di com'era il pezzo di marmo dove il Michelangelo ha fatto sempre la guarda città. Io quando vado, mi capita di passare dalle parti di Carrara, ci sono andato spesso, guardo sempre quelle montagne e guardo quel marmo e dico, pensi quante statue ci possono stare nascoste lì dentro. Pensa che ne so, la Pietà era dentro un blocco di pietra, era lì dentro, e l'artista non ha fatto altro che lo scalpello e togliere il di più. Quindi è interessante vedere il blocco di marmo prima. Anzi, nella contemplazione del blocco di marmo è una meraviglia pensare quello che potrebbe esserci dentro. Pensi alle montagne, sì, cosa c'è dentro. È solo immaginabile. Nel mio caso ormai, a parte le persone che mi conoscevano prima, nessuno può, al massimo se lo si può dedurre, però non è così visibile. Lo so, sono punti di vista. Poi chiaro, il lavoro su di lei se l'è fatto lei, penso anche a costo di sofferenze e fatiche. Non credo che non è proprio, esatto. La carne non è proprio un pezzo di marmo che sta lì e non aspetta altro che le scalpellate. Quindi esatto. Per togliere, mettere, aggiungere, accarezzare, arrotondare le vigare ci vuole del tempo. E costa un pochino quando non siamo anche materia della nostra opera d'arte, non siamo soltanto gli artisti. Ma adesso sei contenta, Elisabetta? Come? Adesso è contenta? Sei contenta? Sì, esatto. In più, io sono anche una pittrice. Anche non contenta di avere costruito l'immagine perfetta sul suo corpo, anche all'esterno dipinge. Però questo esatto. Tutti dipingono. Diciamo, la vera opera d'arte è la trasformazione radicale del suo... è l'aver attuato la riprogettazione radicale del suo corpo. Il suo corpo... E guardi, la mia... suprema opera d'arte che compirò sarà quando avrò i miei documenti e sposerò il mio compagno. Vabbè, quello rientra nella banalità della vita, via, non dica che c'è no, niente di artista. Per me non lo è, perché per me non è mai stato scontato poter... Sì, ho capito, vabbè, ma è una banale tristezza romantica. La vera opera d'arte è la violenza radicale che ha fatto e ha costruito qualcosa che prima non c'era. Sì, se poi si innamora, si sposa e fa i documenti, ma lo fa qualsiasi ragioniere, quindi non è questo il problema. Grazie comunque. Melog 2.0. Francesca Cipriani si è messa due belle protesi. Ho aumentato di due taglie il décolleté. Bello grande, due cocomeri. Aveva una quarta. Ciao Francesca. Ciao. Come va? Ciao, bene, grazie. Benissimo. Molto. Ho questo problema, no? Mi vedi, non è che sono molto... Tu? Se vuoi ti consiglio il mio chirurgo. Assolutamente. Dei medici. Però non vedo l'ora di mettere la scollatura. Ti sei fatta una? Settima. Ok. E prima avevi? La quinta. La quinta, naturale? Finalmente avevo la quarta. Posso toccarle? Ok. Senza trucco, dice la magnifica Nina, credo di essere più bella, più vera, più naturale. Ma con me la natura è stata davvero generosa, soprattutto nel fondo schiena. Il mio sedere lo considero davvero un'opera d'arte. Come darle torto? Dalle tette di Francesca Cipriani al sedere di Nina Moric esiste una gamma infinita di esseri umani che sono baciati dalla visibilità dello star system, che considerano opera d'arte il proprio corpo. L'ascoltatore, ascoltatrice che ha chiamato poco fa, ha realizzato con orgoglio l'opera d'arte della costruzione fisica attorno alla sua identità di donna. E Francesca Cipriani da un mesetto circa va in tutti i talk show a mostrare queste sue mastodontiche sferiformi tette che ha costruito. Non c'erano, le ha fatte per esistere. La sua opera d'arte se la porta addosso. Guardate che la body art è una forma d'espressione importante dell'arte, ha ispirato tutto quello che oggi è l'uso comune di alcune protesi elettroniche. Ad esempio, se non ci fossero stati degli artisti che per primi hanno sperimentato la violenza ricostruttiva sul proprio corpo, la riprogettazione drastica sul proprio corpo, e quindi sono fatti della loro carne sperimentale opera d'arte, oggi non ci sarebbe una diffusione, se volete scellerata, se volete salvifica, così estesa della chirurgia chirurgia estetica, in cui ognuno pensa di poter essere l'artista, il plasmatore della propria carne. Lavorare sulla propria carne è una forma di arte. A volte, non sempre, le opere d'arte riescono come tali. A volte l'opera d'arte, quando viene serializzata, quando tutti hanno la stessa bocca, lo stesso culo, le stesse tette, l'opera d'arte diventa una produzione in serie, smette di essere un'opera d'arte, o se no, secondo alcuni dettami dell'arte contemporanea, proprio nella realizzazione e l'allucinazione di questa sua possibile riproducibilità, c'è qualcosa di dannatamente artistico legato alla nostra perenne, insaziabile sete di costruzione. Sentiamo Maria. Maria, buongiorno. Ah, buongiorno, che emozione parlare con lei. Buongiorno. Sì. Allora, io la mia esperienza anche di... per me. No, è grossa, guardi che io imposto tutta la mia giornata per ascoltare lei. Ecco. Vabbè, io non posso essere io la sua opera d'arte, lei parli della sua opera d'arte, sulla sua vita. Glielo dico. Allora, ho incominciato un po' per gioco a fare fotografie, e ho visto che mi piaceva, che mi riuscivano bene, hanno incominciato a chiedermi i ritratti. Arrivavano di quelle signore mostri, riuscivo, ancora quando c'era la camera oscura, per cui con le graff per nascondere rughe, per nascondere doppimenti, per nascondere baffi, e le facevo diventare così belle che si era sparsa la voce. Un aneddoto su questo. Quindi lei era una meravigliosa camuffatrice di cozze, questa era la sua opera d'arte. Non solo, senta questo aneddoto veloce. Allora, faccio dei segni apposti per una signora che doveva fare una cena importante, e naturalmente ho usato le mie tecniche. Ho fatto dei segni apposti dove c'era la foto, il ritratto di questa padrona di casa e poi sotto il nome. Allora, il mio vicino di tavola mi dice: che bella questa signora, ma che modella è? Mi ha chiesto. Era vicino alla padrona di casa, non l'aveva neanche riconosciuta. Quindi, mentre... se io potessi definire il suo talento artistico nel regalare un'illusione di bellezza che non è naturalmente dotato. Esattamente, cioè ho qualche parola purtroppo perché sono con il cellulare. Cioè la mia passione ho trasformato signore che si sono fatti mega ritratti, mega ingrandimenti dei loro visi, che io sono convinta che a fatica si poteva riconoscere, perché per esempio quando una era, perché ne ho fotografate anche di belle, di signore, ecco, non faccio nomi, ma quando una era proprio irrimediabilmente, perché mi ci sarebbero volute 8 mani per andare a togliere l'ombra in camera oscura, cosa che non ho, e allora la facevo spiare da una... Lei pensa che adesso c'è Photoshop, quindi chiunque può farlo anch'io. Ecco, adesso è molto più facile, ma qui si torna indietro di almeno... dunque 25 anni. Quindi lei è un'artigiana del fotoritocco, e esatto. questo esatto. Senta, le posso fare una domanda personale? Lei non si è mai scozzita attraverso delle foto, lei personalmente, come e persona? E come me le sono fatte anch'io, mi sono tolta le mie brave rughe anch'io, e quando mi guardo provo piacere. Poi se mi vedo allo specchio mi prendo uno spavento. Basta dire che quando ho comprato un computer portatile mi si è aperto il desktop, ho detto: Madonna, hanno messo come sfondo una vecchia, cos'è sta roba? Era la webcam. La webcamera che riprendeva me. Lo so, è duro questo, è duro, però ci passeremo sopra. No, quello che dice lei, mi rendo conto, io in questi giorni, per miei motivi personali, assieme a una videoartista, si chiama Caterina Notte, sto fotografando delle donne banalissime, perché mi piace vedere cosa c'è dietro le donne apparentemente normali. Al di là del risultato dell'operazione fotografica, tutte le donne che sono state fotografate da Caterina, sulle quali poi dovrei scrivere i miei pensieri, hanno detto che è stato uno dei momenti più belli che ricordano delle ultime fasi della loro vita. Quindi far fare delle foto a una donna da un fotografo che ha un tocco particolarmente sottile e profondo significa fare un grandissimo regalo. Quindi essere artisti oggi significa anche regalare una copia illusoria della carne di una persona. Questo è un dato che a me fa riflettere, diverte moltissimo e conferma tante mie idee sulla contemporaneità. Grazie. Maria. Ah, Maria è già stata. Laura. Buongiorno. Eccomi, Laura. Ciao. Niente, io Laura, ho notato che oggi chiamano tutte donne. Sì, Probabilmente voi donne avete una capacità di allucinare più forte di quella degli uomini, o perlomeno di molti uomini, nel trovare momenti artistici nella propria esistenza. Sì, ma probabilmente sì, siamo più... forse più filosofe. Comunque volevo dire che ho fatto questa considerazione qualche giorno fa, cioè la stessa che poi ha fatto lei, cioè io mi sento un artista perché ho un hobby, quello della maglia, e però qualche giorno fa ho avuto la fulminazione, cioè io sono un artista della maglia, mi piace, ho cominciato da piccola e lo faccio la sera quando torno a casa. Cioè con i ferri o con l'uncinetto? Tutte e due. Ah, tutte e due. Quindi è una tricotese artista. Sì. Questo, però mi sono sentita un artista in questo senso, quindi non meno di Leonardo. Ecco, mi dia degli esempi di sue opere d'arte particolarmente riuscite. Guardi, io ho ricordi funesti dei maglioncini fatti in casa, perché quando ero ragazzo, quindi anni 60-70, il maglioncino fatto in casa era un ripiego miserrimo per non comprare maglioncini fuori, quindi erano terribili. Addirittura mia nonna disfaceva con gomitoli vecchi maglioni e li riciclava, ci faceva dei maglioni a strisce per noi ragazzi che erano orrendi, erano dei patchwork terribili, strisce colorate di maglie diverse, devono essere bellissime. Per noi era un sintomo di, non di miseria, che non è che eravamo poveri, ma di quella micragna tipica delle famiglie di una volta. Quindi mi sollevi questo brutto ricordo. Ma forse interpretare cioè la moda di oggi col mio gusto, ho fatto una mantella favolosa per mia figlia che ha 22 anni, quindi è una grandissima critica e che la mette con grande soddisfazione, o le mie nipoti che mi chiedono zia fammi un golf, quindi voglio dire credo di riflettere. Quindi i golf fatti in casa sono belli, non danno quell'impressione un po' miserevole di qualcosa rimediata? No. Quindi lei è una vera artista, da gioia. Molto. E per lei si è fatta qualcosa? Sì, sto facendo ora. Sto facendo. Vabbè. Va bene, niente, era solamente questo che comunque... Anche i calzerotti di lana fa? No, perché quello per me... Io sto elencando tutte le tristezze legate al lavoro a maglia, quindi evidentemente ognuno c'ha la sua storia, giusto che la tiri fuori. Quindi se lei mi ha assolto da un ricordo triste della fanciullezza, se qualcuno mi assolve dall'odore di cavolfiore bollito, mi salva la vita. Melog 2.0. Da Adamo in poi sono il primo e l'ultimo ad avere adoperato l'amplificazione come esautoramento e marginazione dell'io. È inutile credere a questi erano discorsi difficili, sono troppo semplici. Se io avvicino un grande corpo così, come la pittura di Bacon, come Bacon, c'è bisogno davvero dell'impossibile, quello che noi siamo. La vita è impossibile, la vita è invivibile. E così anche che l'arte sia davvero irrespirabile, non sia più consolatoria, non abbia del tragico, non abbia il decorativo, non ne abbia veramente la maschera puttanesca, va bene, della consolazione. Ecco perché ci vogliono degli atti. Ma un atto, ecco Lorenzaccio, che tutto il Nietzsche giovane, un atto smentisce l'azione. Nell'azione i congiurati con Bruto si formano non un'etica ma una morale. Un'etica dell'omicidio del tirano. Questo era Carmelo Bene in una sua famosa apparizione, forse una delle ultime, al Maurizio Costanzo Show, quando lui solo contro tutti, era una delle formule più riuscite del Costanzo Show, spiegava esattamente cosa significava trovare questi attimi di consonanza tra propria esistenza e opera d'arte. A un certo punto disse: io non ci sono, io non esisto. Ricordo che Roberto D'Agostino si alzò e disse: ma se non esisti, perché ti tingi i capelli? Che fu un atto artistico molto più potente, molto più feroce dell'artista indiscusso, però stava lì sul palco a proclamare meravigliosa ambiguità del suo esserci non esserci, e lo colse Roberto D'Agostino e disse: ma perché allora ti tingi i capelli? Lo colse in una grande debolezza, in un momento di meschinità umana, in un momento di caduta. L'artista in realtà non aveva bisogno di tingersi i capelli, non doveva tingersi i capelli come un Pippo Baudo qualsiasi, eppure l'aveva fatto, eppure D'Agostino trasformò, infatti mi ricordo esattamente questa cosa, anche se avvenne veramente 15 anni fa una cosa del genere, ricordo questa sua risposta. 800240024, come trasformiamo la nostra vita in attimi artistici. Finalmente degli uomini. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Io ricordo quella trasmissione con Carmelo Bene, ero ragazzino, forse più di 15 anni fa fu. Fu nel 94 mi sembra. Io già facevo una trasmissione che si chiamava Quasi come Melog e ogni giorno parlavo della televisione il giorno prima. Quindi... Vabbè, io ascoltavo l'innominabile trasmissione. Proprio sì. L'innominabile trasmissione. Allora, io mi sento artista quando faccio il mio lavoro, quindi sono un uomo fortunato. Che lavoro fai? Io faccio il professore alle superiori. Perfetto. E scoprì da ragazzino questo talento, ma lo dico con modestia, so che non è così, ma io l'ho vissuto così, da ragazzino, perché io ho fatto le magistrali, quindi dovevo fare i tirocini alle elementari, e quando riuscì a far fare un esercizio fisico, perché facevamo anche educazione fisica, ai ragazzini delle elementari, che andava fatto invece da quelli delle medie per coordinamento, e i ragazzini lo fecero, ho detto: vuoi vedere che se li prendiamo per mano li portiamo lontano? E poi la mia vita è cambiata, ho studiato giurisprudenza, eccetera. Adesso faccio il docente liceo, e quando entro in classe io mi trasformo, mi metto una maschera e faccio teatro improvviso, anche posso improvvisare, posso creare. All'università non mi è data la possibilità di creare attraverso lo studio e la dottrina, cose rigorose. Quindi è la consapevolezza che accennavo, io ho parlato a braccio all'inizio della trasmissione, nemmeno sapevo bene, nemmeno ricordo bene che ho detto, ma è proprio la... Ecco, se voglio seguire e mettermi in gioco, dico, per me è un'opera d'arte quando mi siedo davanti a un microfono, comincio a guardare il soffitto, comincio a parlare, ascoltando le mie parole senza rendermi conto di ciò che dico, e mi rendo conto che le parole è qualcosa che sta dentro di me, che io non controllo, non seguo, di cui non ho nessun merito, però trovo questo sia artistico. Beh, all'inizio dissi che una delle forme, secondo me, di rappresentazione o di consapevolezza di essere artisti è anche nelle relazioni. Quindi lei nelle relazioni con dei ragazzi, che è uno dei momenti più difficili, più terrificanti, fare l'insegnante a dei ragazzi, ci si sente continuamente sotto tiro. Beh, lei trova il suo momento artistico nel creare uno spazio teatrale, nel circoscrivere quello che è il grigiore, la tristezza di un'aula scolastica, e diventa uno spazio immenso, come appunto immenso lo spazio del teatro. Bravo, Maurizio. Sì, buongiorno. Buongiorno Maurizio, in cosa lei è artista della sua vita? Intanto ti saluto Gianluca. Dunque, io volevo raccontare un aneddoto riguardo, non precisamente a me, ma a una... Solo, se per altri non mi interessa, deve essere... Sì. Questa mattina mettersi in gioco è l'opera d'arte, raccontar di sé. Dimentica l'amico, parla di te. Beh, di me è quasi banale, nel senso, io sono un medico. Il mio modo di fare un'opera d'arte è essere diventato qualcuno... È sradicare, diciamo, una cistifelle, a cose del genere? Ma no, non tanto. Essere una persona con una certa visibilità, e quindi essere considerato una persona... Non puoi dire che mi sento fighetto perché sono un noto medico, devi dire la mia opera d'arte è quando è quello, salvo qualcuno la vita, non lo so, qualcosa del genere o no? No, può essere, io almeno la vedo in maniera forse molto più ingenua. Io penso che per un medico sentirsi artista è quando uno coglie la patologia e salva la vita o toglie la sofferenza. Sicuramente questo è la verità, nel senso che il fare bene... Guarda che vale anche la tua, può essere che in realtà uno si sente artista quando ha il applauso generale per ciò che fa. Io non sono un denigratore dell'egocentrismo, io amo l'egocentrismo, sono egocentrico e trovo che sia una lecita maniera di sentirsi felice. Io sono una delle massime espressioni di egocentricità. Ma guarda, così rovesciamo i luoghi comuni, se no facciamo, che ne so, i teleton della situazione. Commiserarsi e sminuirsi davanti agli altri è troppo facile, è troppo banale. Tu ti senti artista quando ti viene tributato il giusto onore per quello che fai, quello che sei, quello che rappresenti, quello è il tuo momento d'arte. Ma potresti essere anche ingegnere, ciabattino, strozzino, quello che vuoi, comunque sia, indipendentemente dalla sacra missione di essere medico, sei felice quando qualcuno te lo riconosce. Bravo, mi fa piacere. Maurizio. Maurizio è caduto. Caduto, no, è morto. Sei ancora qua. Lì. C'è un altro. No, l'unica cosa che volevo dirti, che però non è riferita a me, è che ho avuto l'esperienza di persone che hanno improntato la propria vita verso, per esempio, diventare santi o buonissimi, con anzi il massimo della ipocrisia. Però da gusto, quando la gente dice: quello, guarda che persona specchiata, guarda che ottimo padre di famiglia, che altruista, che filantropo. Esatto. È bello sentirselo dire. Esatto. E essere infami invece fare essere tutt'altra cosa. Il colpo d'ala dell'artista in quel caso è un'arte, se vogliamo, mefistofelica, è ingannata. condannare gli altri, quando il grande, non posso fare nomi perché siamo sotto par condicio, ma esistono casi specchiati di persone che pubblicamente proclamavano le glorie della famiglia, della compattezza, poi le trovavano a far festini nelle stanze d'albergo con coca e cose varie, si divertivano, ma il vero divertimento non era il festino, il vero divertimento era l'inganno. Anche saper ingannare gli altri è un'opera d'arte. Ogni momento che io riesco a ingannare qualcuno mi sento un artista. Grazie ad Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, la cui opera d'arte è Mandarmi in onda, e ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.